Europa 24. Un saluto anche da Gigi Donelli. Dunque, l'Europa, ed è proprio la Commissione, pochi istanti fa, che in una nota conferma quanto appunto circolava intorno alle scatole nere del 777 abbattuto presumibilmente ieri appunto nel pomeriggio sui cieli dell'Ucraina. Si dice non è noto dove siano chi abbia le due scatole nere del Boeing dunque malese. Questa è una comunicazione della Commissione Europea. Naturalmente il blocco dello spazio aereo, Eurocontrol, come le varie agenzie del volo, l'Eurocontrol è l'agenzia per il controllo del traffico aereo in Europa, a cui aderiscono 39 paesi europei, ha decretato la chiusura dello spazio aereo dell'Ucraina orientale. Tutto questo è accaduto dopo l'incidente, dopo il disastro, e c'è sicuramente un fortissimo interrogativo sulle ragioni che hanno permesso di fatto di volare sull'unica zona di guerra dell'Europa, nonostante tutto e nonostante appunto anche dei segnali molto preoccupanti legati certo non aerei civili, aerei militari ucraini nei giorni scorsi. Ma tant'è, dunque, blocco ai voli fino a nuovo ordine in quella zona d'Europa orientale in attesa che si chiariscano le cause dell'abbattimento. Intanto l'alto rappresentante UE, Catherine Ashton, si è detta scioccata dalle notizie, ha chiesto chiarezza, chiesto trasparenza su quelle che sono le indagini in corso, indagini che di fatto devono ancora iniziare. Nell'ultima ora è arrivato un via libera da parte di gruppi che sul territorio controllano la zona, quindi diciamo genericamente di gruppi filorussi, per fare accedere le squadre di indagine. E mentre la tragedia del Boeing appunto malese abbattuto in Ucraina alza l'allarme per le guerre ai confini orientali dell'Unione, il flop del vertice per le nomine europee mette comunque a rischio il rispetto dei tempi per la costruzione del nuovo governo europeo. Lo stallo tra i 28 sulla candidatura italiana di Federica Mogherini, che viene indicata appunto dall'Italia come sostituta di Catherine Ashton nel ruolo di Mrs. Pesk, quindi politica estera comune, dunque è stallo, un blocco che ha portato al rinvio fino al 30 agosto e quindi della discussione. Ci saranno dunque 6 settimane che saranno difficili, le prossime per Jean-Claude Juncker, ma anche per l'Italia, che naturalmente ha la responsabilità del semestre. I socialisti, per bocca del capogruppo Gianni Pittella, hanno ribadito che per loro c'è solo una candidatura per quel ruolo, ed è appunto quello del ministro degli esteri italiani Federica Mogherini. Intanto dalla Francia si viene a sapere che la candidatura ufficiale di Moscovici per la poltrona di commissario per l'economia dovrebbe essere ufficializzata a breve. Anche questo è un tema piuttosto spinoso. I temi sull'attualità. Adesso invece prendiamo un attimo di respiro, vi facciamo sentire un passaggio dell'intervista con un astronauta europeo, Luca Parmitano, che lo ricordiamo è anche ambasciatore italiano ed europeo del semestre di presidenza. Sentiamolo. Vale la pena perché l'Europa ci rende più forti. Prima ho parlato di un movimento globale di esplorazione. Bene, questo movimento globale nel nostro piccolo come Europa noi l'abbiamo già iniziato coinvolgendoci nell'Agenzia Spaziale Europea. Facciamo un esempio dell'Italia, l'Agenzia Spaziale Italiana. L'Agenzia Spaziale Italiana ha una sua, un suo essere individuale, in cui coopera in maniera bilaterale con la NASA, con altre agenzie mondiali, ma fa parte del consorzio europeo, dell'Agenzia Spaziale Europea, e dà il suo contributo. Quindi, ad esempio, il lanciatore Vega, che nasce come italiano, che però è un lanciatore europeo. Allo stesso modo la Francia, che con il suo lanciatore Ariane 5 copre un'altra fetta di mercato, chiamiamolo così, di lanciatori. La possibilità di essere competitivi nel campo aerospaziale in maniera più forte come Europa, con la nostra presenza italiana, nasce anche da questo. Ma in maniera ancora più semplice, cosa rende questa nostra unione, cosa ci rende più forti in unione come l'Agenzia Spaziale Italiana? Beh, europea. Io parto dal mio esempio. Io sono un italiano, quindi che nasce e cresce in Italia professionalmente, che arriva in Europa come astronauta europeo, che attraverso un volo dell'Agenzia Spaziale Italiana realizza il suo sogno, che era quello di andare in orbita, un sogno straordinario di andarci per 6 mesi. Questa opportunità senza l'Europa non avrei mai potuto sfruttarla, perché io sono un astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, quindi è così che sono diventato un astronauta e ho potuto sfruttare un'opportunità italiana. Un esempio più diretto non potrei farlo. Questo era Luca Parmitano, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, naturalmente dell'Agenzia Spaziale Italiana. È tutto, Europa 24 torna lunedì. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.